per le ruberie era uomo assai famoso. Chiunque rubare facea ai suoi masnadieri. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Voi siete in parte venuto dove niente si teme per noi. L'abate forte e sdegnoso s'andò verso il castello. Oh, oh. Dino vi prega, significagli dove andavate, per quale cagione. L'abate gli disse: andavo a curarmi bagni di siena, pane arrostito e vernaccia dal per prigioni. A me parrebbe di stare bene se fossi fuori delle sue mani. Io dico messere, se te li sentite è tempo di uscire dall'infermeria. Di nuovi tacco il quale io sono, non intendo trattarvi come altro farei. Messere abate, potete andare o restar. L'ira e lo sdegno caduti, col cuore amico abbraccio vino. Santo Padre, la grazia per te chiederò. Padre, dovete sapere che ghino di tacco guerito mia. Vostra domando per lui, per quello che ha fatto per me. Santa Chiesa.